Succede ogni due settimane? Cosa succede ogni due settimane la domenica sera? Se volete scoprirlo, prendete il battello a vapore e recatevi ai Frittole Studios. Portate tutto quello che vorreste trovare in quel disordine. Tra splendidi birrini, rilassatezza, musica dal vivo, qualche lettura e microfoni aperti, due ore voleranno. Se non vi va di muovermi, accendete la radio e lasciatevi condire la pericena scrivendoci a frittole@gattini.ninja nel caso riusciate a trovare un senso al nome della trasmissione. E se non l'aveste ancora capito, la trasmissione è l'arte del vizio e siete su Radio Wombat. Buonasera a tutte e tutti. Buonasera. Te l'ho rubata, Palmiro. Ah! Benvenute, benvenuti a Frittole. Avete sentito queste parole di introduzione alla trasmissione? Parlate, lette in modo emozionante dal reverendo che è ai controlli. Parole parlate, troppo buono, Reve. Troppo buono, Drio, ciao, buonasera. Albus, buonasera, Palmiro, inarrestabile, al chitarrino magico che è lì, che vola da tre ore. Veramente vola da tre ore. E ricordiamo che in realtà, appunto, questa è una settimana dopo la prima diretta delle domeniche sere. Ed è in realtà un regalo che stiamo facendo a Palmiro. Ah, è vero, che a gran richiesta ci ha invitati di nuovo qui a suonare tutti insieme. Buonasera a tutti. Allora, questa diretta, queste dirette, come sentite, sono un po' siamo da rodare ancora un po'. È un programma nuovo. Buonasera a tutti. Non lo stai sentendo, doctor, non hai le cuffie, però sto mandando in loop. Stai a ridere un po' troppo. Abbiamo... Comunque, ereditiamo il programma, le puntate speciali che abbiamo iniziato a fare in primavera. E così, un po' a casaccio, un po' per non disumanizzarci troppo in fase di lockdown. E adesso che c'è nuovamente aria di primavera, ricominciano le puntate speciali, che non sono più speciali, in quanto lo spazio che Wombat ci ha gentilmente concesso e che probabilmente ci revocherà a breve. Speriamo così. Speriamo di no, speriamo di comportarci bene. Comunque lo spazio adesso è quello della domenica alle 19. Dalle 19 alle 21. Speriamo ce lo revochi presto, così avremo di nuovo la domenica libera. Comunque abbiamo una domenica su due, o due domeniche su quattro, o più o meno quattro domeniche su otto. Giusto, allora matematica. Siete bravi in matematica. Siamo bravi. Complimenti. Allora, prima di tutto io direi prima i nostri di tutto contatti. Scusiamoci con i nostri contatti, giusto, reverendo? Scusiamoci con i nostri contatti. C'erano una quindicina di ascoltatori e ascoltatrici, ora sono rimasti. Scusiamoci con loro innanzitutto. In 12. Ma io direi di scusarci innanzitutto per il ritardo, che è effettivamente mezz'ora accademica. Vabbè, grande classico per noi. Grande classico. E poi niente, io volevo ricordare di iscriverci a frittole@gattini.ninja, nel caso non l'aveste ancora capito. E come dicevi, dottor, mi collego con le mie scuse ufficiali che sono rivolte ad com'è che a Monna Lisa e Morgana che giustamente ci avevano scritto settimana scorsa e noi non l'abbiamo letto. Ma non l'abbiamo cagate di strisce. Non l'abbiamo cagate, quindi. Sì, ero lì che avevo ripetuto almeno 6 volte di scriverci e poi non avevo aperto la mail. Oggi sì, oggi è aperta, ve lo garantisco. Comunque ci avevano richiesto un pezzettino e noi proveremo a farglielo ascoltare. Aspetta un secondo. Dobbiamo prima dire quali sono i nostri contatti, se no altrimenti la mail chi la manda? Allora ci ho detto 6 volte, Albus. Ma come? Non sei attento. Non sono attento. No, dillo tu, attento. Dillo tu a sto punto. Ma io non la so. Che bellezza, allora, che scriveteci bellezza. Scriveteci da casa, scriveteci i nostri contatti, che qui non li sappiamo. Per favore trovateci dei contatti, oltre che a un senso. Che bello, siamo qui anche con degli ospiti in studio che ancora hanno un nome. Lui non ha un nome, ma lo troverà adesso perché dovrà salutarvi. Salve a tutti, buonasera, sono Tony Manero. Oh, Tony Manero, Tony. Salve anche, Tony. Detto anche la seconda voce più sexy della radio. Detto anche il ragno di Reggello. Che bellezza. Vabbè, Palmiro, voli, cioè si potrebbe fare una trasmissione solo con te. Ah no, aspetta, forse era, è la trasmissione. Ah. È la trasmissione odierna. Sì, effettivamente andremo avanti un po' a braccio. Sì, però, sì, dai, io... Ah, finalmente sono entrati i contenuti, ecco, in questo studio. Arriva Beppi, l'intellettuale dello studio. I contenuti sotto forma di persona, noi eravamo qua a dire minchiate. Allora, prima di tutto io proverei a farmi perdonare con... Ma li hai detti i contatti, scusa? No, non li voglio più dire. Comunque, frittole@gattini.ninja. Allora, facciamoci perdonare subito da Monna Lisa e Morgana. Ci prendiamo una pausetta di qualche minuto, ci riorganizziamo, proviamo a capire come mantenere meglio le distanze, ci laviamo le mani e poi ritorniamo da voi con parole parlate. questa è per voi. Per favore vai via. Matrice sociale della tecnologia. Non siamo più capaci di distinguere tra ciò che vi è di sociale nella nostra vita e ciò che vi è di tecnico. Per questa incapacità a distinguere i due livelli, stiamo anche perdendo la capacità di stabilire quale dei due debba essere funzionale all'altro. Qui è il nocciolo delle difficoltà che abbiamo nel controllare la macchina. Ci manca il senso della matrice sociale in cui dovrebbe essere inscritta ogni tecnica, ci manca il significato sociale della tecnologia. La tendenza della tecnica a colonizzare l'intero spazio dell'esperienza umana fa sì che sia oggi apocalitticamente necessario bloccarne l'avanzata, ridefinirne i fini, riassorbirla nuovamente in forme organiche di vita sociale e di soggettività umana. Il problema storico della tecnica non sta nella sua dimensione, nella sua leggerezza o pesantezza, e ancor meno nella produttività e nell'efficienza che le guadagnarono l'ingenua reverenza delle generazioni passate. Il problema sta in come si possa includere, vale a dire assorbire, la tecnica dentro una società emancipatoria. In sé, il piccolo non è né bello né brutto, è semplicemente piccolo. Alcuni dei sistemi sociali più disumani e centralizzati si basavano su tecnologie molto piccole, che le burocrazie, le monarchie e gli apparati militari seppero utilizzare per soggiogare gli esseri umani e successivamente per soggiogare la natura. Certo, una tecnica di grande scala alimenterà lo sviluppo di una società oppressiva di grande scala, ma ogni società distorta segue essenzialmente la dialettica patologica del dominio, indipendentemente dalla scala della sua tecnica. Termini come grande, piccolo, intermedio, leggero, pesante si riferiscono ad attributi esteriori dei fenomeni e delle cose, non alla loro essenza. Possono aiutarci a determinare la loro dimensione o il loro peso, ma non ci spiegano le qualità immanenti della tecnica, in particolare come essa si rapporta alla società. Il problema della tecnica, della scelta fra una tecnica libertaria e una autoritaria, venne posto alcune generazioni fa da Fourier e da Kropotkin, assai prima che Mumford denaturasse l'aggettivo libertario nel più amorfo e socialmente rispettabile termine di democratico. Ma questa scelta non è una scelta peculiare del nostro tempo, ha un pedigree lungo e molto complesso. Le ceramiche squisitamente decorate di un mondo artigianale che va scomparendo, i mobili mirabilmente lavorati, le stoffe abilmente intessute con sottili e coloriti intrecci, gli ornamenti finemente lavorati, gli utensili e le armi stupendamente cesellati. Tutto questo testimonia di un ampio ventaglio di capacità, di un'attenzione al prodotto, di un desiderio di autoespressione, di una passione per il dettaglio e l'unicità che sono quasi del tutto scomparsi dall'attività produttiva dei nostri giorni. Nella nostra ammirazione per quelle opere artigianali c'è anche, inconsapevolmente, un senso di inferiorità, un senso di carenza per quel perduto mondo di artigiani in cui erano state prodotte, un mondo che esprimeva negli oggetti un alto livello di soggettività. Si sente che in quei beni avevano impresso la loro personalità esseri umani, identificabili, che erano in profonda sintonia con i materiali e gli strumenti utilizzati e con gli antichi canoni artigiani consolidatisi attraverso innumerevoli generazioni. In fondo, ciò che ci colpisce emozionalmente è il fatto che quegli oggetti testimoniano dell'esistenza di un fecondo spirito umano, di una soggettività creativa che esprimeva il suo retaggio e la sua ricchezza culturale immateriali che, diversamente nella nostra società, apparirebbero prosaici, non degni di giudizio estetico. In quel mondo, l'alone surreale attorno alle cose non era il risultato di un approccio metafisico a opera degli intellettuali europei, ma parte integrante della vita vissuta dalla gente ordinaria. Che gli eschimesi ponessero grande cura nella preparazione dei loro strumenti, perché avevano grande cura gli uni degli altri, è abbastanza ovvio. E che la qualità animata degli oggetti del loro artigianato rivelasse un intrinseco senso di animazione e di soggettività non necessita di essere sottolineato. Ma, in ultima analisi, tutto questo discendeva dalla struttura libertaria della comunità eschimese. E ciò vale anche per le comunità del tardo paleolitico e del primo neolitico, i cui artefatti ancora ci lasciano incantati e le cui tradizioni costituirono più tardi la base comunitaria ed estetica delle grandi civiltà dell'antichità. Quello che originariamente distingue una tecnica libertaria da una autoritaria è qualcosa di più della scala di produzione, del tipo o della dimensione dell'attrezzatura e perfino qualcosa di più del modo in cui viene organizzato il lavoro, per quanto tutto ciò possa essere importante. Quello che forse è la causa cruciale del prodursi di questa distinzione è il sorgere di una tecnica istituzionale. La corporazione sacerdotale, le emergenti burocrazie che la circondano e successivamente le monarchie e gli apparati militari e i relativi sistemi di credenze che convalidano l'intera struttura gerarchica e costituiscono il nocciolo autoritario di una tecnica autoritaria. Non è l'esigenza di surplus di ricchezza materiale che produce le gerarchie e le classi dominanti. Al contrario, sono le gerarchie e le classi dominanti che producono grandi surplus di ricchezza materiale. Il più notevole risultato di queste burocrazie non fu il coordinamento e la razionalizzazione della macchina umana, ma fu l'efficacia con cui ridussero i loro soggetti animati, i loro grandi eserciti di contadini e schiavi, a oggetti inanimati. La mega macchina poteva essere smontata altrettanto facilmente di quanto poteva essere montata e le sue componenti umane passavano la maggior parte della loro vita nella matrice organica di una società di villaggio. Il lavoro e il lavoratore erano sottoposti non solo alla frusta dello sfruttamento materiale, ma anche, il che era peggio, alla frusta della degradazione spirituale. Le gerarchie e le classi dominanti avanzarono le loro pretese di sovranità non solo elevando se stesse, ma anche abbassando gli altri. È per noi difficile capire che le strutture politiche fanno parte della tecnica non meno degli strumenti e delle macchine. Questa difficoltà deriva anche dal fatto che la nostra mente è modellata su una metafisica dualistica di struttura e sovrastruttura. Sezionare l'esperienza sociale dividendo l'economico dal politico, il tecnico dal culturale è diventato come una seconda natura. Ma in parte si tratta anche di una tendenza dovuta a opportunistica cautela politica, alla scelta deliberata di evitare scontri con la dura realtà del potere in un periodo di compromesso sociale. Meglio occuparsi della tecnica in termini di strumenti, macchine, lavoro e progettazione che in termini di istituzioni politiche coercitive, cioè proprio di quelle strutture che modellano l'insieme della tecnica e del suo immaginario nella società moderna. Una tecnologia liberatoria presuppone istituzioni liberatorie. Una sensibilità liberatoria richiede una società liberatoria. Il capovolgimento degli strumenti è inconcepibile senza un radicale capovolgimento di tutte le relazioni sociali e produttive. che belli i nostri musicanti che continuano. Ricordiamo che siete sempre all'ascolto di Radio Wombat, lo so che ve ne siete andati, andate in tante. Resta Palmiro al chitarrino, Dottor Io al bassino e Albus al pianofortino. E sono qua con Bepi che tra poco passerà la seconda lettura. Io volevo solo dire che avevo letto un pezzettino molto piccolo dall'Ecologia della Libertà di Bookchin. Albus applaude, Albus d'accordo. Sono d'accordo. E se Albus è d'accordo. E niente, niente. Ma questo è era il capitolo dedicato alla tecnica, alla tecnologia. Ed è molto, molto lungo, molto profondo. E ve lo continuerò a leggere nelle prossime puntate. No, visto che stavi leggendo Bookchin. C'è in ascolto un mio amico che ho conosciuto proprio direi grazie a Bookchin. Colgo l'occasione di salutarlo. Ciao Giovanni da Paderna, spero ci risponderà qualcosa. Scrivici un'email, Diane. Dai Giovanni da Paderna, scrivici. Fatti sentire. E frittole@gattini.ninja appunto è la mail che potete mandare le vostre critiche, i vostri suggerimenti alla nostra studio di frittole. E non ci può essere una tecnica giusta senza una società giusta, questa doppia faccia, questa doppia valenza della tecnologia e messa in luce da Bookchin è un pensiero su cui io personalmente sono molto d'accordo, una critica molto interessante al concetto di tecnica, al concetto di tecnologia. E come sapete questo tema è sempre abbastanza caro delle nostre trasmissioni. Se nella scorsa puntata abbiamo letto da Rivista Anarchi, che è un intervento del collettivo Ippolita, dei compagni che la sanno molto lunga su queste questioni, si occupano di diffusione, si occupano di formazione proprio su queste tematiche, che vi invito ad andare a riascoltare, vi invito ad andare a informarvi. E questo è il punto del collettivo Ippolita. Scusate, Dottor Io alza la mano. Allora, io volevo. Siamo scandalosi. Esatto. Aspetta, scusa Palmiro. Io volevo rinnovare l'invito. Suoni la batteria? Suoni le percussioni? Suoni le pentole? Percuoti? Aspetta, percuoti qualcosa? Scrivici a frittole@gattini.ninja. In quanto siamo alla disperata di ricerca di un o una percuotitore, percuotitrice di qualcosa. In quanto noi siamo un po' disperati senza percussioni e quindi lo sentite bene, va bene, appello lanciato. Ci manca il ritmo senza di voi. Mi tocca farlo a me con la tastiera, sentite qua. Molto trap. Boh, molto trap. Sei veramente un giovane. Ovvio. Thank you. prova. E sappiamo per certo che mentre andiamo in onda stiamo facendo compagnia a qualcuno, qualcuna di voi che sta cucinando e che si sta preparando una bella cenetta, e speriamo per voi, insomma, che siate in buona compagnia sia nella preparazione sia poi nella mangiata. Come noi anche qui alla Frittole avremo tra poco l'occasione di essere appunto in compagnia di bella gente che ci fa piacere avere attorno ad ascoltare, a fare Radio Wombat. E questo mi porta direttamente alla seconda lettura di questa sera. Ovviamente io volevo proporvi un altro grande pippone di patriarcalizzazione, ma per questa sera ve lo risparmio, infatti. E anzi, passiamo appunto ad argomenti più leggeri per una serata. E quindi, rimanendo nel tema culinario, volevo introdurre questa nuova rubrica di ricette interessanti. Ma vuoi un tappetino live o un tappetino non live? Allora, perché mi piace moltissimo questa cumbia giapponese. E adesso vedo di fermarlo. No, controlli. Per me può andare avanti, eh. Tanto ci manca Albus che è andato in bagno. Ormai da allora... mezz'ora. No, allora lasciamo la cumbietta. Ci piace come sottofondo della nuova rubrica appunto di cucina, e volevo leggervi l'introduzione e qualche ricetta di preparati base dalle ricette del premiato forno. Uno stupendo libro di cucina che mi ha accompagnato per anni e che mi ha dato un sacco di gioie, edito dalla Cox 18 Books. E per chi non lo sapesse, ricordo, il Cox 18 è uno storico centro sociale milanese, sede del grandissimo archivio di movimento Primo Moroni, che esiste da moltissimo tempo, è stato vissuto e viene vissuto da tantissime iniziative. tantissime, la maggior parte, quasi tutte, delle quali tra l'altro vengono anche registrate, possono essere scaricate sotto forma di podcast e ascoltate esattamente come ci state ascoltando ora dal blog cox18streamings.noblogs.org. andatele a vedere perché sono interessantissime. Il premiato forno era uno dei progetti del Cox, e in particolare quello di un gruppo di gente che si dedicava all'antiproibizionismo militante. Ed infatti si dedicava alla preparazione culinaria di piatti appunto a base di canapa e derivati, promuovendo appunto l'autoproduzione, un uso sociale e anche alternativo di queste sostanze che ci piace tanto consumare, e magari però facendolo, accompagnandolo con una bella riflessione sull'uso critico. Il risultato sono stati appunto anni di attività del premiato forno, con serate dedicate e poi anche la produzione di questo libro di ricette, tutte rodate in anni appunto di attività del premiato forno al Cox. Premiato Forno comincia la propria avventura culinaria nel 1992 e si ispira sin dagli inizi al libro Marijuana in cucina di Esposito e Sinibaldi, Editelli editore, del 79, gelosamente custodito e tramandato nel tempo. Marijuana in cucina si inseriva nel dibattito sulle droghe di quegli anni, cercando di portare informazione, innovazione e possibilità di gustare i piaceri di hashish e marijuana anche per chi sceglieva di non fumare. Gli stessi autori del libro non fumavano. Il premiato forno, che da subito con i suoi prodotti si inserisce in numerose iniziative antiproibizioniste svoltesi in quegli anni in diversi centri sociali italiani, tenta con questo libro di affinare gli studi e i segreti dei nostri predecessori e uscire da uno scarno dibattito istituzionale sulle cosiddette droghe leggere, dove una sostanza ricca come la canapa viene confinata nella figura stereotipata dello spinello, dello spinellato, del venditore di spinelli. Il dibattito extra istituzionale, in questi anni molto ricco di contenuti e variegato per aree di intervento al contrario, cerca di dare il massimo dell'informazione sulle molteplici possibilità di questa pianta, come produttrice di fibra, di carta, di cellulosa, di solventi, di oli combustibili, come miglioratrice della fertilità del terreno, come produttrice di cibo, come medicinale, come pianta produttrice di benessere. E in realtà pare evidente che la repressione connessa al proibizionismo legato all'uso dei derivati della cannabis ha una funzione squisitamente legata alla necessità di esercitare un controllo sempre più diffuso non solo sui soggetti sociali che si rendono visibili nella pratica proibizionista, ma più in generale su intere fasce generazionali. È piuttosto noto infatti che i consumatori di questa sostanza sono alcuni milioni solo nel paese Italia e che la consuetudine del suo uso è praticata da diverse fasce sociali e da altrettante fasce anagrafiche. E questo indipendentemente dal dato che la pratica del suo uso sociale sia stata introdotta nel nostro paese dall'emergere delle controculture legate alla rivolta esistenziale dei primi anni 60. Altrettanto noto è il dato che dimostra che l'elemento della repressione penale o amministrativa è sostanzialmente piuttosto basso, se rapportato alla massa dei consumatori e soprattutto se confrontato con la incredibile quantità di fermi temporanei connessi all'accertamento dell'eventuale possesso della sostanza. Fermi e perquisizioni che si risolvono nella maggioranza dei casi con il semplice sequestro di piccole quantità. Sarebbe interessante sapere dove finiscono queste piccole quantità sequestrate, visto che non vengono quasi mai verbalizzate. senza nessun'altra conseguenza peraltro consentita dalle leggi vigenti, nonostante la parziale depenalizzazione intervenuta. E se è sicuramente vero e accertato che periodicamente le maglie della legge stringono maggiormente il proprio ordito, questo avviene quasi sempre in concomitanza con grandi campagne di stampa e di allarme sociale, quali quelle, per esempio, legate alle cosiddette morti del sabato sera. Come del resto appare evidente che l'elemento del controllo è particolarmente intenso e ossessivo, soprattutto nei grandi hinterland, nell'immensa provincia, che non nei territori metropolitani in cui, in ciò, seguendo diligentemente lo svilupparsi del decentramento produttivo. Strumento repressivo legato quindi tutto e interamente alla necessità di controllare e sorvegliare, piuttosto che a quella di punire. Strumento in tutto tondo funzionale al disciplinamento dei soggetti sociali, e non preoccupata e risibile intenzione dell'istituzione di preservare la salute dei cittadini da un eventuale e inesistente pericolo legato al consumo di una sostanza nociva. Perché mangiare? Perché mangiare erba anziché fumarla? Mangiare succulenti piatti farciti con gustose dosi di canapa o resine ricavate dalla stessa pianta è sicuramente un modo insolito di gustare questi prodotti naturali, che può accompagnare particolari serate con amici o permetterci di consumare i nostri piaceri in certi luoghi, in certe situazioni in cui fumare una canna è davvero difficile. La ragione che più di ogni altra dovrebbe invogliare a cimentarsi con quest'altro modo di usare hashish e marijuana è soprattutto la particolarità dello sballo. Quando la canapa è fumata, l'effetto è pressoché immediato. L'high arriva subito, può durare fino a un paio d'ore. Quando invece la canapa è ingerita, l'effetto passa attraverso il processo di digestione e quindi i primi effetti appaiono nel giro di 45-60 minuti. Dopodiché la sua durata è però infinitamente superiore a quella della miglior canapa o hashish fumata. Fosse anche una super skunk olandese o un imbattibile charas indiano. Digeribilità e solubilità. Il principio attivo della cannabis, il famoso tetraidrocannabinolo, che d'ora in poi chiameremo più confidenzialmente THC, è più efficace ed assimilabile più facilmente e rapidamente se prima viene disciolto in grassi, olio o alcol. Infatti grassi e olio stimolano la produzione della bile e, intervenendo nel processo digestivo, consentono a tutta o quasi l'erba ingerita di essere assimilata. L'alcol da parte sua è assorbito con molta rapidità dalle mucose dello stomaco ed entra velocemente nella circolazione sanguigna. È perciò un buon veicolo per portare rapidamente nel sangue le sostanze con cui è combinato. Anche il miele e gli altri zuccheri sono assorbiti rapidamente nel sangue. Ma dato che il THC non si scioglie e non si attivizza negli zuccheri, troppo zucchero nelle ricette può danneggiare o ridurre l'effetto. Una piccola quantità di alcol e di zuccheri aiuta invece considerevolmente l'assimilazione del THC. La cosa più importante da ricordare è che il THC è solubile in olio, grassi vegetali e animali, alcol, e non è solubile in acqua. Far bollire l'erba quindi servirà al massimo a dare un vago profumo hippie alla vostra casa. Le forme più semplici di estrazione della resina e attivazione del THC sono: 1. Scaldare a lungo o bollire, meglio se a bagnomaria, in alcol o in un liquido fortemente alcolico. 2. Saltare o scaldare a lungo in olio o burro, oppure in un'emulsione di acqua e grassi, la più comune delle quali è il latte. Le parti della canapa bollite nel latte si scioglieranno, e questa è la base di un'antica e nota bevanda indiana. 3. Per alcune ricette particolari, il modo migliore per usare la canapa è quello di preparare dei fiori tostati. Le quantità di canapa o hashish indicate nelle ricette, indicativamente mezzo grammo a persona, sono una quantità media. Per intenderci, basta per una seratina frizzante. Bisogna sempre tenere presente la differente tolleranza individuale, le diverse qualità di erba, i diversi metodi di cottura. L'ideale sarebbe sperimentare una ricetta, adattandola ai vostri gusti e alle vostre possibilità, cominciando con piccoli quantitativi poco impegnativi. Ricordate che in genere l'indebolimento dell'effetto del THC comincia attorno a 100 gradi. Non bisogna però esagerare con il calore. Se temperature appena oltre 100 gradi possono essere mantenute per circa mezz'ora senza che si verifichi un reale impoverimento nel valore di THC, oltre questi valori la perdita di potenza è di circa il 10% ogni 30 minuti. Bisognerà essere molto prudenti, perché troppo calore può distruggere le attività del THC, mentre normali temperature e normali tempi di cottura ne aumentano la potenza. I piatti qui presentati non dovranno servire da pretesto per grandi abbuffate. Troppo cibo, e cioè troppe portate o porzioni troppo abbondanti, servirà solo a diluire, indebolire la potenza dell'high, perché diminuirà la capacità di assimilazione delle resine. Consigliabili sono dunque porzioni piccole. Alcuni non amano troppo il sapore della canapa, ma ricordiamo che l'erba, più è di buona qualità, migliore sarà il gusto e il sapore. Il problema può nascere con alcuni tipi di hashish di bassa qualità, tagliati con sostanze nocive. Consigliamo quindi di usare solamente hashish e olio di buona qualità, puro, e solo per preparare dolci e bevande, che confondano il loro sapore. Evitate però sostanze che rafforzino troppo il sapore. Questo è il caso del glutammato monosodico, cioè il dado da brodo. Usate perciò brodi di carne, brodi vegetali, oppure il più semplice brodo di soia, cioè mettere la salsa di soia nell'acqua. L'eccessiva acidità, infine, degli ingredienti inibisce l'assimilazione del THC. Per questo, ad esempio, non si deve mai usare l'aceto come condimento, almeno nelle insalate. Piuttosto usate un po' di succo di limone. Per ogni evenienza, ricordatevi che un po' di cibo può riportarvi giù rapidamente e senza danni. Basterà un buon pasto, o un panino, o anche solo un cucchiaio di mele per diminuire o annullare gli effetti di qualche boccone speciale. Tutte le ricette che seguono, salvo diverse indicazioni, eccetto che per i dolci, sono per 4 persone. Thank you. prima ricetta che volevo leggervi questa sera sono dei preparati di base che poi potete usare per preparare le vostre cenette come fate tutta la sera. E la prima di queste è il burro d'erba. Ingredienti: per ogni 50 grammi di burro, a seconda della qualità e della vostra personale tolleranza, potrete usare tra i 5 e i 10 grammi di canapa, ma non di più. Fate sciogliere in un pentolino a bagnomaria il burro, aggiungendovi la canapa tritata molto fine. Lasciate amalgamare il tutto a cottura molto lenta, finché il burro non diventi di un verde omogeneo e intenso. Filtrate il burro fuso con un collino molto fine in un vasetto richiudibile. Infine, fatelo raffreddare nel frigorifero, capovolgendolo di tanto in tanto fino a solidificazione. A differenza del burro di erba, usando hashish puro o di qualità molto alta e potendolo polverizzare, non sarà necessario filtrare il composto. Le dosi per ogni 50 grammi di burro, nel caso vogliate usare l'hashish, si aggirano tra i 3 e i massimo 5 grammi. Un altro preparato base, semplice, e che può essere inserito in moltissime ricette di quelle che prepariamo tutti i giorni, sono i fiori tostati. La canapa cruda, oltre a essere sgradevole al palato, non possiede la necessaria potenza cannabinica. L'acido tetraidrocannabinolico, precursore chimico del THC, necessita di calore per convertirsi nel più conosciuto e attivo THC. Olio e o burro ci aiuteranno in questo processo di attivazione. Per preparare i vostri fiori tostati, versate l'erba finemente tritata in una padella accuratamente imburrata o oliata e rosolate bene il tutto a fuoco bassissimo fino a doratura. Prima di terminare la prima parte della nostra nuova rubrica culinaria, voglio leggervi quest'ultima ricetta. la Pumarola Grass. Ingredienti: 1 kg di pomodori perini, olio, sale, pepe, cipolla, basilico, 4 g di canapa. La salsa napoletana per eccellenza, quella degli spaghetti con la pumarola, è naturalmente quella al pomodoro, semplicissima da fare e sempre appetitosa. Soffriggete nell'olio la canapa e una cipolla piccola, finemente sminuzzate. Quando comincerà a imbiondire, aggiungete 1 kg di pomodori perini, preventivamente scottati in acqua bollente, spellati e privati dei semi. Infine, un mazzetto di basilico. Lasciate cuocere per circa mezz'ora a fuoco basso, mescolando e sminuzzando i pomodori. Quando la salsa comincerà a restringersi, condite con il sale necessario e appena un po' di pepe. Vi impedisce ora di condirvi un bel piatto di vermicelli oppure di mettere la vostra salsa in un barattolo e sterilizzarlo per la chiusura ermetica sotto vuoto, per aprirlo poi quando ne avrete o vorrete usarne. E si conclude qui la nostra prima parte assieme a questo splendido tappetino in cui abbiamo visto l'inedita presenza del reverendo sfuggito ai controlli per mettersi alla batteria nel suo, col suo ride nuovo di zecca. Ha tenuto compagnia con questo tappetino e vi ringraziamo tutti, stupendi musicisti, siete delle bellissime persone. Spero che questa nuova rubrica vi abbia interessato e dai, vediamo di continuarla magari nelle prossime puntate con delle ricette un po' più complesse che speriamo stuzzichino la vostra fantasia. Grazie dei contenuti, a me è piaciuto un sacco, veramente tanto. E anche il Reve mi è piaciuto un sacco, il primo a rispondere all'appello del dottor Io, che si stacca davvero dai controlli, lascia tutto nelle mani del caso. Sì, vabbè. Pur di darci il ritmo. Sì, veramente, veramente nelle mani del caso. Avrebbe potuto succedere un disastro, avremmo potuto non essere più in diretta, avrebbe potuto cadere un asteroide su Frittole e Reve non ci sarebbe stato. Il tuo boom cha, Reve, ci ha rincuorato, ci ha rischierato la via in questa notte di musica e di note volanti a caso. caso. Caso. Ma diamo altra cumbia, dai. Così non si scassano il cazzo. Thank you. E ci avviciniamo alla fine di questa diretta, ma vi voglio, prima di salutarvi, appunto, beccatevi questo nuovo brano tappetino che i nostri musicisti studio stanno facendo per noi. Thank you. E con questo è veramente tutto, amici e amiche. Dallo studio di Frittole anche la diretta di questa domenica si conclude. Rimanete con noi perché nelle prossime domeniche la nostra trasmissione continuerà. Ma attenzione, giunge in questo momento una mail da Giovanni. Il basso di Tommy mi fa impazzire, godo tantissimo. Grazie a Phil per i saluti. Ciao Giovanni, e grazie per la tua mail. Noi ti ringraziamo e saluti anche a te. Cosa Palmi, scusa? No, diceva purtroppo era Palmira. Ah sì, è vero. Non c'è Tommy, purtroppo in studio non ci sono Tommy. Non c'è nessun Tommy, al basso era Palmiro. Ebbene, amici e amiche, come vi stavo dicendo, la Silente, diretta di oggi... Scusate, Silente ha detto apritemi. Allora... Come una scatoletta. Oh, bellissimo scontrio. Phil, sei aperto? Ha fatto la soda o la trovata? Ma non so, non capisco. Tutto Silente continua a restare silente. Comunque. Se è tardi, c'è della bolgia in studio. Ah, era spento il microfono. Sono tornato. Silente e yeah. Dai, stiamo occupando i nostri colleghi della fuga del gatto, ragazzi. Quindi sarebbe il caso di staccare. Il computer dice 20:59? Ah, ok. Il telefono del dottor Rio diceva 21:07. Il mio telefono, allora, devi sapere che è avanti di 8 minuti. Salutiamo tutti, un ringraziamento a tutti i musicisti che sono venuti qua a suonare per noi gratis e che hanno fatto dell'ottima musica grazie alle letture del Neverendo su la tecnica. Sulla tecnica. Grazie alle letture del nostro Beppi Manin sulle ricette del premiato forno. E grazie agli ospiti speciali. E speriamo che quest'arte del vizio vi sia piaciuta. Mandateci un'email all'email che già vi hanno detto a cui mandare le email. Non te la ricordi. @gattini.ninja. Ma salutiamo anche Tony Manero di nuovo, che ci ha assistito tutta la puntata. Il ha fatto veramente grande. Io e Neverendo ci siamo picchiati tutta questa trasmissione perché lui non è d'accordo ancora su questo arte del vizio, come se tutto dovesse avere un senso. Beh, io risaluto Giovanni. Ciao Giù. Ciao Giovanni, purtroppo ero io, non era Reverendo al basso. Mi dispiace. Scusa, i complimenti per me che ero alla tastiera, no? Tu suoni la tastiera tutta la vita, Albus, non vale. Cioè... Te sei nato e suonavi la tastiera. Sì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao ciao ciao. Buonasera ciao, ciao, basta cazzate. Buonasera ciao a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. No, scusate, c'è un altro video. Attenzione. Banca. Spara al padrone di casa che ti fa pagare 300 a stanza. Siamo le nuove BR, siamo le nuove BR. Scusate Radio Wombat, scusate Radio Wombat, non censurateci per favore. Questo è P38, nuove BR, noi siamo solamente dei tramiti, siamo solamente dei canali, non c'entriamo niente con questo. Sbocco sulle camionette, 20-20 come 7-7. Zitto zitto pagami il riscatto, zitto zitto sei su un R4. Sparare con una Montanelli alla tua testa, regalo proiettili, fa chi lavoro, sto guardando Netflix. Siamo le nuove BR, siamo le nuove BR, taglio la gola al signor presidente, do fuoco alle prove, sparisco per sempre. Tesoro, gli occhi dicono lo uccido un'altra volta, chiuso dentro una roulotte. Il potere mangia merda nelle ville di Salò. Siamo comunisti. Bisogna cambiare sistema. Bisogna rapire dei grandi industriali e farsi pagare il riscatto. P38 la gay.